io ho voluto dire come stanno le cose, cioè che si tratta di un fenomeno limitato, che si sta procedendo a fare i controlli a tappeto su tutti i caseifici per individuare quelli nei quali si è stato utilizzato latte inquinato. Fra l'altro questo inquinamento è un inquinamento molto, molto blando, cioè si tratta di tracce di diossina. Tuttavia noi questa mattina il governo adotterà le misure concordate con l'Unione Europea allo scopo di ritirare dal mercato i prodotti che risultano essere non a norma, in modo da restituire certezza assoluta ai consumatori italiani e stranieri. E una volta completate tutte le misure nel corso di pochi giorni, noi siamo convinti di restituire certezza a tutti sulla qualità di un prodotto che rimane direi un simbolo della gastronomia italiana, è un prodotto di altissima qualità. Quindi il governo sta agendo allo scopo di porre fine a questa crisi.